Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche delle prospettive economiche sull'Italia, visto che poco fa sono usciti i dati del Fondo Monetario Internazionale, ha alzato le stime di crescita per il PIL italiano. Adesso non torniamo con la polemica sull'Istat, questa volta il Fondo Monetario Internazionale più 0,8% nel 2015, più 1,3% nel 2016, è un rialzo modesto dallo 0,7 allo 0,8 quest'anno e dall'1,2 all'1,3% nel 2016, però faccio notare che si veniva da 13 trimestri consecutivi di calo del PIL, più 0,8 è un po' meglio dello 0,6 che si stimava a metà anno e nella prima metà dell'anno. Questo per dirla tutta, siccome veniamo da anni in cui tutte le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso e abbiamo chiuso in recessione nel 2014 e anche nel 2013, una volta tanto, se le stime vengono riviste al rialzo è inutile bastonarsi. La disoccupazione in Italia viene vista calare dal 12,2% di quest'anno, che comunque sarebbe in calo rispetto al 12,7% dell'anno scorso, lo 0,5% in meno. Poca cosa se si ricorda che prima dello scoppio della crisi la nostra disoccupazione viaggiava tra il 7 e l'8%, quindi siamo ancora ampiamente sopra, ma viene vista in calo all'11,9% nel 2016, anche se il Fondo Monetario sottolinea che il tasso di disoccupazione italiana resta alto come media nell'area euro. Il deficit quest'anno al 2,7%. Per cento contro il 3% del 2014, questo avvantaggerebbe il governo, perché un deficit sotto il 3% e in riduzione rispetto al 2014 non sarà quello promesso all'Europa, ma è comunque un percorso virtuoso, siccome ci sono paesi come la Francia che se lo scordano di arrivare anche al 3%, il governo avrà buon gioco nel dire se quest'anno facciamo il 2,7% rispetto al 3%, c'è un deficit che è sotto il 3% che si sta riducendo. Dicevo, l'anno prossimo viene visto al 2% come deficit sul PIL. Il quadro che esce dal Fondo Monetario Internazionale, ripeto, fermo restando che siamo ampiamente sotto i livelli del 2007, è un quadro relativamente positivo. Ancora su questo oggi è intervenuto anche Standard & Poor's, ne parleremo fra poco, perché ha fotografato una ripartenza anche qui lenta, timida, degli investimenti delle aziende italiane grazie a un miglior accesso al credito. E poi cita testualmente Standard & Poor's un effetto Renzi, adesso immagino già gli sms, un effetto Renzi sul boom di acquisizioni in Italia da parte di stranieri. L'ondata di shopping di società straniere in Italia è dovuta, secondo Standard & Poor's, anche all'attuale governo che, cito testualmente, ha creato un contesto più stabile in termini di politiche pro-business, e poi c'è una maggiore stabilità economica e un PIL che sta lentamente crescendo. A fine agosto le operazioni hanno registrato un valore di 22 miliardi, quindi nei primi 8 mesi dell'anno, contro i 14 miliardi dei primi 8 mesi del 2014, le operazioni di investimenti di stranieri in Italia. Anche qui conosco la polemica: vengono a comprarsi i nostri marchi migliori, vengono a comprarsi i gioielli, allora intanto è difficile che uno straniero venga a comprarsi la ciofeca, cioè uno quando va a comprare qualcosa compra una cosa che funziona o che ritiene che abbia un valore aggiuntivo incrementale. In secondo luogo, a prezzi di saldo non lo so, ma soprattutto non possiamo un giorno lamentarci che l'Italia è un paese poco attrattivo e quindi mancano gli investimenti degli stranieri, a differenza della Gran Bretagna dove sono presenti tutti i grandi fondi, o anche in Francia, cioè in Germania, faccio notare che il secondo azionista, o meglio il terzo, della Volkswagen con il 17% è il fondo del Qatar, e parleremo anche di Volkswagen oggi. Non ci si può lamentare, dicevo, un giorno che mancano gli investimenti degli stranieri e il giorno dopo, se arrivano gli investimenti degli stranieri, allora a questo punto ci stanno colonizzando. c'è un'espressione che dice in un modo non ti piace né in un modo, non ti piace né in un altro, ecco, non può sempre essere una lamentela. Dicevo che parleremo di Volkswagen perché da un lato c'è una stima molto chiara in una lettera inviata ai dipendenti, agli azionisti, 20.000 oggi riuniti nell'assemblea straordinaria, in cui il gruppo dice attenzione, i 6 miliardi e mezzo che abbiamo accantonato per lo scandalo Dieselgate non basteranno, e noi la settimana scorsa modestamente ce ne eravamo già accorti, non saranno sufficienti. E poi sempre in questa lettera Volkswagen fa sapere che degli 11 milioni di auto del gruppo, dei diversi marchi taroccate, 8 milioni si trovano in Europa. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Visto che me lo chiedete, no, parleremo anche proprio dell'indotto oggi, c'è cioè col presidente di Anfia che rappresenta le 240 maggiori imprese italiane che sono fornitrici della filiera automobilistica e che esportano ogni anno 4 miliardi di euro verso i marchi automobilistici tedeschi. Ne parleremo per capire se notano qualche tensione, lo dico perché qualcuno mi scrive ma lei fa male a gongolare per la Volkswagen, poi quando licenzieranno le imprese italiane dell'indotto le manderemo tutte a Radio 24. Guardi che fin dall'inizio ci siamo preoccupati della ricaduta sull'indotto italiano. Comunque ancora andiamo avanti per quello che riguarda la borsa, più 0,70% Milano, più 1,1 Parigi, più 1% Francoforte, più 0,30 Londra, il Dow Jones più 0,33, euro su dollaro sempre sopra quota 1,12 a 1,1260, tra i titoli bene oggi Todds più 3,70%, Unipolsai più 3,30, Tenaris più 3,13%, Finmeccanica più 2,90, Mediaset più 2,70, A2A più 2,20, continua il buon andamento di Hughes e Net-a-Porter. Dopo il debutto di ieri era la migliore in molte parti della seduta, più 1,80% come Campari, l'1,60 lo guadagna Eni ma anche Azimut, l'1,40 il rialzo di Enel e di Unipol. Realizzi su Saipem, il titolo è molto ballerino in questi mesi, più 3,36% dopo il balzo di ieri. Pop Milano meno 2, Pop Emilia Romagna meno 1,70, Banco Popolare meno 1,50%, Ubibank meno 0,60, oggi soffrono, tra virgolette, sono vendute come sentite soprattutto le banche popolari. Ma fa eccezione nel mondo, diciamo, che è oggetto di riassetto, Unipol più 1,40 e il Monte dei Paschi più 1%. Cito anche a livello bancario Intesa San Paolo più 0,90% e Unicredit più 0,50%. Telecom Italia, la conferma che i francesi di Vivendi sono saliti al 19,9% è arrivata oggi. Tra l'altro, per quello che riguarda il prezzo comprato su Telecom, siamo a 3,054 euro. Il titolo oggi guadagna Telecom Italia l'1,12%. Scusatemi, il prezzo complessivo di 3,54 miliardi di euro, pari a 1,14 euro per azione. Il prezzo di oggi infatti è nettamente superiore, però su questo insomma ha oscillato tra 1,15 euro, 1,13 euro, 1,12 euro per cento. Adesso siamo sostanzialmente in rialzo dell'1,12%. Ancora migliori e peggiori della seduta, Molmed più 9,90, Key Group meno 5%. Delle altre notizie parleremo, mi riferisco sia a Volkswagen, dicevo, che all'andamento degli investimenti in Italia misurati da Standard & Poor's. Sui invece i dati, le stime diffuse poco fa dal Fondo Monetario Internazionale si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Paterotti. Salvatore Padula, scusate. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Dal Fondo Monetario Internazionale sono da poco arrivate due notizie, una positiva, l'altra non proprio buona. Partiamo da quella positiva. La ripresa economica dei paesi avanzati, Italia compresa, sta gradualmente migliorando. È vero che ci aspettano mesi complicati, per esempio bisognerà capire quale impatto avrà la vicenda Volkswagen sulla Germania, ma non solo, sulla Germania. Peraltro proprio oggi sono arrivati dati non positivi sugli ordinativi all'industria nel mese di agosto. Però insomma il Fondo Monetario è ottimista sulle economie avanzate e per l'Italia alza addirittura le stime di crescita per il 2015 e il 2016, portandole a ridosso di quelle previste dal governo. A preoccupare l'FMI, e veniamo invece alla notizia cattiva, sono invece le economie dei paesi emergenti, sulle quali pesano il crollo dei prezzi delle materie prime, l'eccesso di credito del passato, in alcuni casi l'instabilità politica, e ora c'è anche la prospettiva del rialzo dei tassi americani. Preoccupa naturalmente l'economia cinese, proprio l'altro ieri le previsioni di crescita sono state tagliate sotto il 7%, che era considerata una soglia critica, e ovviamente preoccupano anche la Russia e il Brasile, che sono invece addirittura in recessione. Questo è lo scenario che ha spinto il fondo a rivedere al ribasso le previsioni sulla crescita globale, che si fermerà al 3,1% quest'anno e al 3,6% nel 2016. Risultato: sei anni dopo l'uscita dalla più profonda recessione del dopoguerra, il ritorno a un'espansione globale robusta e sincronizzata ancora non si vede. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Un nuovo flash del Fondo Monetario Internazionale, vabbè, adesso questo farà gongolare il Presidente del Consiglio Renzi, farà arrabbiare gli ascoltatori di questo programma non renziani. A me non me ne frega nulla né dei renziani né degli antirenziani, vorremmo solo vedere un'Italia che riparte come crescita economica, onestamente questa è la priorità, tutto il resto sono così, tifo da stadio, e l'abbiamo detto mille volte, lo dico a chi scrive, che quella ripresa italiana è soprattutto dovuta a elementi esterni, esogeni, euro basso a 1,11, ma nel frattempo anche un petrolio basso sotto i $50 e tassi di interesse ai minimi storici, con l'inondazione di liquidità che sta facendo Mario Draghi attraverso il quantitative easing, quindi su questo non ci sono dubbi. Comunque la notizia è che l'Italia, secondo il Fondo Monetario Internazionale, può fare di più in termini di crescita, ed è di sicuro possibile che possa fare come o meglio della Germania, come auspicato dal Premier Matteo Renzi. Lo ha affermato Thomas Helbling, che forse dal nome è tedesco pure, che è capo del Dipartimento Economico del Fondo Monetario Internazionale. Veniamo a Standard & Poor's, che fotografa invece un'altra Italia che si muove, ma si muove sul fronte degli investimenti stranieri. Anche qui il rischio, lo dico già, è che vi diano dei renziani, ma insomma nel 2015-2016 ripartono gli investimenti delle aziende italiane e l'effetto Renzi si fa sentire sul boom di acquisizioni estere in Italia. Standard & Poor's, lo ricordo, è una delle agenzie al mondo, delle tre agenzie che dà voti ai governi e ai debiti dei privati. Noi abbiamo avuto anche confronti molto duri negli anni passati con il metodo di Standard & Poor's, ma in questo caso stiamo parlando dell'analisi complessiva e siamo in collegamento con Renato Panichi, che è senior director dei rating societari di Standard & Poor's. Buonasera. Buonasera. L'ho preciso perché lei non si occupa dei rating sovrani, cioè non si occupa dei debiti dei paesi e quindi dei voti, delle triple A che non vedremo mai o delle altre lettere dell'alfabeto. Lei si occupa dei debiti dei privati, ho capito bene? Dei corporate. Scusi? Dei corporate, delle aziende. Sì, allora, voi fotografate una situazione in cui le aziende italiane stanno ripartendo negli investimenti, fermo restando che il calo degli investimenti ha inciso pesantemente sul PIL, è passato dall'11% del PIL nel 2008 al 9% nel 2014, che vuol dire che se spariscono 2 punti percentuali di PIL, lo dico a tutti, vuol dire che sono spariti 30 miliardi di euro di investimenti dei privati. Che cosa vi fa essere più ottimisti sia sugli investimenti delle aziende italiane e che cosa vi fa parlare di un effetto Renzi sugli investimenti degli stranieri in Italia? Sì, metto un po' di numeri sul tavolo. Ci aspettiamo una ripresa moderata degli investimenti dopo diversi anni di una discesa piuttosto accentuata, come lei ha menzionato. I motivi di questa ripresa di investimenti sono essenzialmente miglioramento delle condizioni di accesso al credito, finito il credit crunch che si era visto nei 2 anni passati, un miglioramento della fiducia da parte dei consumatori e delle imprese, e anche abbiamo visto un incremento della percentuale di utilizzo della capacità produttiva del sistema industriale. Quindi questi fattori comunque normalmente spingono le imprese a una ripresa degli investimenti ed è quello che ci aspettiamo nel 2015 e anche nel 2016. Dal punto di vista delle imprese italiane, come giustificate il fatto che ripartano gli investimenti? Solo con il QE di Draghi, cioè tassi di interesse bassi e liquidità? Beh, diciamo che ci sono stati fattori esterni che hanno aiutato in generale, ha citato appunto il contesto di bassi tassi di interesse, aggiungere anche l'offerta di credito che è migliorata, il basso prezzo del petrolio comunque un fattore importante per le imprese italiane e anche l'indebolimento della valuta, sono tutti aspetti questi che aiutano soprattutto le aziende un po' export oriented. Dal nostro punto di vista è importante sottolineare comunque che questa ripresa è una ripresa ancora contenuta, ma soprattutto polarizzata, quindi abbiamo imprese per le quali le condizioni miglioreranno in maniera significativa, ma abbiamo anche un numero di imprese per le quali le condizioni non miglioreranno granché. Quindi attenzione a questo aspetto di polarizzazione che è un po' tipico delle fasi di ripresa, ma in questo momento per l'Italia è una condizione veramente importante da sottolineare. Sì, no, ma ci mancherebbe, no? Le notizie positive le accogliamo sempre. Senta, sul fronte delle acquisizioni estere, ma veramente c'è un effetto Renzi o in realtà sta migliorando il clima economico? E per carità, il fatto che l'Italia non sia di nuovo ad elezioni può aiutare, ma voi parlate proprio di un effetto Renzi? Ci sono 2 effetti che giustificano l'incremento dell'M&A in Italia. Il primo è sicuramente un dato legato al valore degli asset, quindi molti asset italiani hanno sottostimati, quindi questo è un appeal per aziende straniere a investire in Italia. Il secondo aspetto che lei ricordava è un mutato scenario economico e politico, tenga presente che le aziende straniere prediligono stabilità sia economica che politica per poter effettuare investimenti, quindi diciamo la presenza concomitante dei 2 aspetti ha certamente aiutato. Ma lei sul tema, personalmente sul tema delle acquisizioni estere in Italia, perché io dicevo prima di averla in collegamento, ogni tanto ci lamentiamo che mancano gli investimenti stranieri perché siamo un paese poco attraente e attrattivo di investimenti, dall'altro poi ci lamentiamo che vengono a colonizzarci, a fare shopping, il vostro punto di vista qual è? Cioè che servano più investimenti stranieri in Italia o che il rischio è che se non... che con i prezzi e i corsi azionari, ma anche i prezzi raggiunti, andiamo a svendere, diciamo, i gioielli del paese? No, direi che la cosa più importante è che ci sia un ritorno da parte degli investimenti stranieri in Italia. Allo stesso tempo anche le aziende italiane devono essere attive in questa fase di consolidamento e di acquisizioni. Ad oggi vediamo un ruolo più delle aziende straniere ad investire in Italia, ma ci aspettiamo comunque che anche le aziende italiane si muoveranno. Ecco, dal suo punto di vista che cosa potrebbe andare storto? Perché abbiamo iniziato il rientro dall'estate con le tensioni sui mercati asiatici, adesso si sono un po' tranquillizzati, vediamo che questa ripresa italiana è molto eterodiretta, cioè dovuta a motivi esterni. La vicenda Volkswagen, poi ne parleremo con i dati che ci stanno arrivando, non sembra aver inciso per ora sui fornitori e sul mercato auto complessivamente dato, sta facendo dei grandissimi danni ed era ovvio al gruppo Volkswagen, ma insomma da questo punto di vista che cosa potrebbe andare storto? Ma dal nostro punto di vista i rischi principali vengono dall'esterno, quindi parliamo di un rallentamento dell'economia cinese superiore rispetto ai numeri circolati nelle ultime settimane e di un ulteriore rallentamento di altre economie emergenti. Questo perché in una situazione di questo tipo avremo anche una diminuzione del commercio globale e quindi una diminuzione delle esportazioni. Tenga presente che l'Italia non esporta in quantità significative verso la Cina, però indirettamente ne sarebbe impattata perché esporta verso paesi come la Germania che poi esportano verso la Cina, quindi c'è un effetto indiretto che comunque impatterebbe anche noi. Siamo dei grandissimi italiana. Fornitori, delle volte anche subfornitori, ma fornitori, ripeto, 4 miliardi tutti gli anni di componentistica auto dati ai marchi tedeschi, sono tanta roba. Per cui dice le tensioni possono arrivare soprattutto dal fronte degli eventi esterni, cioè ciò che in questo momento sta guidando la ripresa potrebbe essere anche l'elemento o gli elementi che potrebbero raffreddarla, se ho capito bene. Sì, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che una parte rilevante della ripresa viene proprio dalle esportazioni. Grazie al Senior Director of Ratings Societari di Standard & Poor's, Renato Panichi. C'è il metodo della pubblicità, poi il Fondo Monetario Internazionale con queste nuove dichiarazioni da Lima, sta parlando il Fondo Monetario Internazionale, e soprattutto particolarmente positive per l'Italia. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti, adesso arriviamo anche alla borsa, però vorrei commentare, visto che abbiamo avuto ospite il responsabile di Standard & Poor's per quello che riguardava la parte degli investimenti stranieri in Italia e della ripresa anche degli investimenti delle imprese italiane, i dati e le previsioni diffuse oggi dal Fondo Monetario Internazionale. Alessandro Merli del Sole 24 Ore, buonasera Alessandro. È caduto Alessandro Merli nel senso della linea, ci mancherebbe. Allora iniziamo a ricordare invece che cosa ha detto oggi il Fondo Monetario Internazionale. Ha detto sostanzialmente poco fa che l'Italia può fare di più e anche meglio della Germania. Questa è una domanda fatta a Thomas Helbling del Dipartimento Economico, riferita alle dichiarazioni del Premier Matteo Renzi. Ha detto sì, l'Italia può fare di più in termini di crescita, è di sicuro possibile che possa fare come o meglio della Germania. Molto positivo il Fondo Monetario Internazionale oggi, dicevo, conferma un PIL cinese in rialzo del 6,8%, la Russia che si contrae, l'area euro più 1,5%, gli Stati Uniti più veloci quest'anno del 2,6% la crescita, e l'Italia rivista a rialzo più 0,8% quest'anno e più 1,3% nel 2016%. Alessandro Merli, eccolo, buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi, vi sento molto male. Dunque, vediamo adesso di sistemare la linea, ci senti meglio adesso? Dunque, la stima del Fondo Monetario, potremmo dirla così, vede un'economia cinese freddina, perché quest'anno più 6,8 e l'anno prossimo più 6,3. Una Russia che ancora è piena di problemi, addirittura ha tagliato le stime, meno 3,8% quest'anno e meno 0,6% l'anno prossimo. L'area euro che si sta riprendendo, anche se non alla velocità degli Stati Uniti, e forse la sorpresa è proprio l'Italia, Alessandro. Ah, diciamo che è chiaro che il Fondo Monetario questa volta ha identificato come principale problema dell'economia mondiale i paesi emergenti, come dicevi, aggiungiamoci anche il Brasile che ha avuto un taglio brutale delle previsioni di crescita in una recessione molto, molto forte, quindi dei famosi BRIC, la Cina in rallentamento. La Russia e il Brasile sono in contrazione, l'unico che tiene in fondo è l'India, l'area euro si riprende, l'Italia è una sorpresa positiva, il ritocco è molto marginale dello 0,1% sia per quest'anno che per il prossimo, però insomma è un segnale indubbio che stiamo uscendo da quella lunga recessione, non dimentichiamo che il 2014 ha segnato una contrazione dell'economia dello 0,4%, quindi quest'anno siamo passati allo 0,8%, non solo, ma il fondo prevede che già nel quarto trimestre di quest'anno si arrivi all'1,2%, non solo, ma parlavo proprio pochi secondi fa con Carlo Cottarelli, che è rappresentante dell'Italia nel board, nel consiglio esecutivo del Fondo Monetario, diceva forse il fondo sottostima un po' la crescita, soprattutto per l'anno prossimo, perché ritiene che la politica fiscale sarà, la politica di bilancio sarà più restrittiva di quello che in realtà il governo ha annunciato nella sua nota di aggiornamento del DEF, quindi sarà un piccolo aiuto anche da parte della politica fiscale, quindi il fondo che dice 1,3 forse non sarà poi molto lontano dal governo che dice 1,6, insomma un po' di ripresa. Cioè dici che addirittura c'è, e il fondo lo dice, Italia, Spagna e Irlanda sono i paesi che sorprendono positivamente nell'area. Oh, ogni tanto, adesso non metto nessun gallo, non metto nessuno, perché sono scaramantico, però ogni tanto sorprendere in positivo dopo anni che sorprendiamo in negativo, che eravamo la di oil belt, la cintura dell'olio, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, ma perché lamentarsi, perché dire che siamo troppo renziani, non lo so, lo dico agli ascoltatori. Andando avanti, quindi tu dici il Fondo Monetario è anche prudente sull'Italia perché non considera il fatto che da Bruxelles potrebbe arrivare un po' di margine in più sulla manovra e quindi un alleggerimento anche della nostra pressione fiscale, un po' di ripresa in più se appunto otteniamo maggiori margini, lo 0,4, vediamo cosa ci daranno per cento di scostamento rispetto a quanto abbiamo promesso. È una ripresa però da questo punto di vista, Alessandro, che visto che non è più trainata, non è più così trainata dall'export, i paesi emergenti segnano un po' il passo, è una ripresa che anche il fondo immagina dovuta più ai consumi interni questa volta? Eh sì, perché insomma in fondo sono favoriti dal fatto che l'energia, il prezzo dell'energia e delle altre materie prime di cui noi siamo importatori, in fondo creano più reddito disponibile, i prezzi sono più bassi di quello che non fosse. Poi non dimentichiamoci che c'è la politica monetaria della BCE che è molto accomodante, aiuta, insomma negli ultimi mesi finalmente qualche ripresa del credito alle imprese, oltre che alle famiglie, si è visto. Questi sono tutti fattori che indubbiamente aiutano. Mettiamoci pure anche l'euro, anche se giustamente dici l'export forse sarà meno determinante che in passato. Forse in questo caso la grossa incognita viene dalla Germania, sappiamo quanto la nostra economia sia interconnessa con quella tedesca e in fondo ancora è troppo presto per fare i conti sulle vicende, sullo scandalo Volkswagen, però non c'è dubbio che qualche impatto lo avrà sia sull'economia tedesca sia su tutto l'indotto, che anche nel nostro paese è molto importante, una cosa che credo che in ambienti industriali, per esempio il Presidente Confindustria Squinzi ha sottolineato. Ma guarda, avremo un'incognita forse viene per una volta dalla Germania, dalla non Germania, certo. Avremo ospite il Presidente che raggruppa 230 aziende che forniscono componentistica anche ai gruppi automobilistici tedeschi, l'Anfia, per parlare di questo, dei loro timori. Detto questo, voglio dire chiaramente, è ovvio che un po' di contributo può arrivare finalmente dall'area euro, è 7 anni, soprattutto gli ultimi 4 anni, che arriva solo dall'export, su questo diciamo, esistono anche i cicli, fortunatamente, forse stiamo entrando in un ciclo in cui anche i consumi interni ripartiranno. Un'ultima domanda, Alessandro, ma perché il Fondo Monetario si riuniva a Lima? Questa è una mia curiosità, non... Io scuso ma non ho sentito, se puoi ripetere. No, dico, domanda. Perché si riuniva a Lima il Fondo Monetario? Tutte le agenzie arrivano da Lima. C'è questa consuetudine, direi, da quando il Fondo Monetario è stato fondato, comunque da tempo immemorabile, che ogni terzo anno le riunioni annuali del Fondo sono fuori da Washington, anche per cercare di dimostrare che il Fondo non è un'istituzione americana, comunque solo dei paesi avanzati, ma che è di tutti i suoi paesi membri, che sono più di 180. I paesi si candidano, i governi dei vari paesi si candidano e offrono di ospitare questi incontri. Questa volta è toccato al Perù, sono cose che vengono programmate con largo anticipo, salvo poi questi programmi saltare, come è avvenuto 3 anni fa, quando le riunioni dovevano essere a Sharm el-Sheikh, e con le turbolenze che ci furono allora, furono poi spostati a Tokyo. Però, nonostante tu sia a Lima, ti sentiamo abbastanza bene. Abbiamo avuto più problemi delle volte quando eri a Francoforte. Per cui. Allora, un'ultima domanda invece riguarda un'analisi che non è inerente solo all'Italia, ma è inerente a tutta l'area euro e riguarda la crisi dei rifugiati. C'è una frase che farà discutere, dice Maurice Obstfeld, capo economista del Fondo Monetario: la crisi dei rifugiati è una grande tragedia umanitaria e serve la cooperazione di tutti i paesi per raggiungere una soluzione. E vabbè. E poi aggiunge: ci vorrà del tempo per l'integrazione dei rifugiati, ma alla fine avranno un impatto positivo sulla crescita, anche se accogliere rifugiati potrebbe mettere sotto pressione i bilanci dei paesi. È molto, quasi non dico positivo, ma molto morbido il Fondo Monetario su quello che sta capitando in Europa. Beh, in sostanza lui dice una crisi umanitaria di grandissime proporzioni. È evidente che ricevere questi rifugiati in un primo tempo ha dei costi anche abbastanza pesanti. Sappiamo che la Germania, che è uno dei paesi più esposti, ha già stanziato 10 miliardi di euro in bilancio addizionali per queste operazioni di accoglimento dei rifugiati. Sappiamo anche il costo che ha per l'Italia, appunto, essere in prima linea, diciamo sulla linea del fronte per l'arrivo di questi rifugiati. Però giustamente il Fondo Monetario sottolinea il fatto che quella europea è una società a forte invecchiamento, dove progressivamente verrà meno la manodopera, c'è bisogno di qualcuno che faccia tanti lavori che nessuno vuol più fare, e in futuro queste persone che arrivano da fuori potranno servire anche a coprire questi buchi del mercato del lavoro, che al momento non vediamo, soprattutto in Italia dove la disoccupazione è ancora alta, ma parlano qui naturalmente del lungo periodo. Però vorrà dire integrarli, insegnargli la lingua, in qualche caso insegnargli una professione, quindi nel lungo periodo sarà un effetto benefico che per il momento scontiamo col fatto che c'è un costo notevole. Vabbè, la cosa importante però è quella che ricordavi all'inizio, cioè che una volta tanto il contributo alla crescita non arriverà dai paesi emergenti, anzi arriverà dagli Stati Uniti più 2,6, dall'area euro in ripresa 1,5, e Italia, Portogallo e Spagna questa volta non saranno i fanalini di coda col segno meno, ma saranno a pieno titolo partecipando a questa crescita. E appunto poi la frase: l'Italia potrebbe fare anche più e meglio della Germania, piena di sé, va detto prima che qualcuno ci titoli in maniera un po' superficiale. Grazie Alessandro Melli in collegamento con noi da Lima. E adesso traffico e poi la borsa. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, adesso la borsa per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria. Abbiamo un indice complessivo di Piazza Affari più 0,90%, Parigi più 0,95%, Francoforte più 0,90% e Londra più 0,55%. Tra i titoli molto bene TOZ più 3,80, Unipolsai più 3,60, Tenaris più 3 come Mediaset, il 2,70 è il rialzo di A2A e di Finmeccanica. Il 2,10% è il rialzo di Hughes Net-a-Porter, il 2% è quello di Azimut e di Campari. Bene anche Eni, più 1,60 come Enel e Unipol ed ST Microelectronics. In negativo Saipem meno 3,12%, Pop Milano meno 2%, Banco Popolare meno 1,30%, Ubibanca meno 1% come Pop Emilia Romagna, Moncler meno 0,30%. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, insomma, Hughes Net-a-Porter continua a piacere, anche se oggi poi alla fine se ne è avvantaggiata TOZ, più 3,82%. Sì, diciamo diciamo che è la seconda seduta positiva per Yux Net a Porté, ieri aveva messo a segno un rialzo ben più significativo, oggi comunque chiude a più 2,1%, qui il focus del mercato è sostanzialmente sulle sinergie a regime, quindi al terzo anno, che a livello di EBITDA potrebbero valere almeno 60 milioni di euro, almeno questo ha detto la D di Yux. Federico Marchetti, ovviamente il balzo di Yux ha favorito anche altri titoli del lusso, un esempio l'hai detto tu, è Tod's, che è stato addirittura il migliore, chiudendo a più 3,8%. Ancora, per quello che riguarda gli altri titoli, Unipolsai va bene, particolarmente bene, più 3,60%. Qui ci sono le dichiarazioni del numero 1 Cimbri, no? Sì, stamattina la D di Unipolsai ha sostanzialmente confermato il dividend yield dell'anno scorso, che era pari all'8%. Cos'è il dividend yield? Il rapporto molto semplicemente tra dividendo e valore dell'azione. Ciò non significa che in valore il dividendo sarà uguale all'anno scorso, anzi gli analisti stimano che sarà leggermente inferiore perché l'azione evidentemente è calata, però comunque si tratta di un dividendo superiore alle attese del mercato, quindi Unipolsai ha reagito rimbalzando con decisione. Ancora, A2A tocca i massimi, se ho ben visto, da 5 anni a questa parte, qui c'è l'attesa per l'integrazione con Linea Group stasera scade il termine, no? Sì, diciamo che un termine, c'è già stata una proroga di qualche giorno, in realtà le trattative in esclusiva dovevano scadere a fine settembre, ma qui ci sono tutti i comuni soci di Linea Group, che ricordiamo una multi-utility che opera nella bassa Lombardia, quindi Pavia, Crema, Cremona, Rovato e così via, tutti i comuni che stanno esaminando l'offerta non vincolante di A2A, e dentro stasera dovranno dare una risposta se sarà positiva, come il mercato evidentemente stima, il mercato scommette su una risposta positiva, partiranno poi ulteriori trattative, ci sarà un'offerta vincolante da parte di A2A e quindi entro fine anno, con l'inizio del 2016, potrebbe essere finalmente implementata questa operazione. Ancora, scusate la voce, anche oggi Saipem realizzi in un titolo che comunque è sull'otto volante, meno 3,12% oggi. Sì, assolutamente, ieri ha effettuato un balzo molto significativo, ricordiamo che comunque il titolo resta, ha perso quasi il 70% del suo valore negli ultimi mesi, è un titolo che chiaramente dipende dalle indiscrezioni, dalle voci di mercato legate all'operazione straordinaria e al riassetto che forzatamente dovrà vedere coinvolto la controllata di Eni, riassetto a cui sono legati sicuramente un rifinanziamento del debito, e poi c'è anche il tema dell'aumento di capitale di cui in questi giorni si stanno discutendo l'ammontare e la portata, con il potenziale ingresso anche di cassa, depositi e prestiti nel capitale. Teniamo per ultime le due notizie più importanti. Da un lato Atlantia, e qui c'è Atlantia, l'ex Autostrade per l'Italia, la notizia della vendita del 30% di Aeroporti di Roma non ha esaltato il titolo, mettiamola così, che ha chiuso invariato. Qui c'è una valutazione forse sotto l'attesa del mercato. Dall'altro Telecom Italia, che si è avuto oggi conferma ufficiale, i francesi di Vivendi hanno acquisito il 19,9%, sono arrivati, già erano dentro, al 19,9% delle azioni ordinarie. Prezzo totale dell'acquisizione nelle consolidate è di 3 miliardi e 54 milioni di euro, pagando circa 1,14 euro per ogni azione ordinaria. Il titolo oggi ha chiuso, eccolo qua, a 1,07 euro, quindi sotto, in rialzo dell'1,40%, e quindi Atlantia e Telecom. Ma che per partire dall'ultima, sicuramente il titolo era cresciuto molto sulle aspettative, sulle indiscrezioni di un'ulteriore salita di Vivendi oggi, ieri sera si è preso atto di un'operazione che era un po' che era un po' stata odorata dal mercato, e quindi è abbastanza normale che oggi il titolo si sia mosso all'incirca in linea con quello che è stato l'andamento del FTSE MIB, anzi leggermente meglio. Per quanto riguarda Atlantia invece ci sono state appunto queste offerte da parte dei cinesi di Jinko3 e del fondo sovrano di Abu Dhabi, entrambi offrono per il 15% del capitale di Aeroporti di Roma, di ADR, delle offerte che valorizzano in tutto Aeroporti di Roma circa 3,3 miliardi, sul mercato si parla di stime, anche guardando i multipli dei principali competitor, di oltre 4 miliardi, quindi che il mercato è rimasto un po' deluso da quello che potrebbe essere il potenziale incasso di Atlantia. Migliori e peggiori in assoluto, Molmed più 8,61, Industria e Innovazione più 8,20, Renault più 6,94, Kering più 6,94, Carrefour più 6,90%, fronte opposto Key Group meno 4,36%, Ambro Mobiliare meno 4,15%, e poi di Saipem abbiamo detto, e Boero Bartolomeo meno 2,90%. Grazie a Ceo Condi nella Radio Corriere Sole 24 Ore, GR24 e poi il mercato auto, ma non solo, anche alcune dichiarazioni che un po' faranno discutere. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alle stime dei produttori di componentistica auto su alla luce anche di quello che ha detto oggi la Volkswagen, che ripeto ha detto che i 6 miliardi e mezzo accantonati sono troppo pochi, non basteranno per lo scandalo che è scoppiato. Vorrei però dare alcuni aggiornamenti su altre dichiarazioni. Prima, da un lato le dichiarazioni del ministro Padoan, ministro dell'economia italiano Padoan, oggi al termine del vertice Ecofin, dove si è raggiunto un accordo politico sullo scambio automatico di informazioni sui tax ruling, cioè le diverse legislazioni e tassazioni presenti nell'area europea. Il compromesso è stato raggiunto grazie ad alcuni emendamenti, tra cui le esenzioni per le piccole e medie imprese, tranne quelle che si occupano di investimenti e attività finanziarie. E dice appunto il ministro Padoan che con l'accordo di oggi ci sono le basi per un forte recupero dell'evasione e soprattutto di lotta all'elusione. Lo spiegavamo anche ieri, il calcolo astronomico, oltre 200 miliardi di quanto risparmiano le società mettendo la sede legale dove pagano il fisco, dove più gli conviene, anche se fatturano in altri paesi. Sono soprattutto i colossi, e devo dire non sono esclusi i colossi, anzi, dell'IT o della New Economy, come si chiamava una volta. Comunque sentiamo Padoan su questo. Per quanto riguarda il fatto che il tax ruling possa facilitare la lotta all'elusione fiscale, lo confermo, questo va avanti in Italia indipendentemente dalle misure internazionali, ma le misure internazionali, questa come altre misure di trasparenza fiscale, l'Italia le ha sempre non solo considerate importanti, ma si è fatta parte attiva. Ricordo che il risultato di oggi sul tax ruling è in linea con l'implementazione degli accordi OCSE e BEPS che saranno presentati a partire da domani a Lima nella riunione del G20, che a questo proposito l'Italia insieme alla Francia e alla Germania aveva inviato parecchi mesi fa una lettera alla Presidenza dell'Unione e alla Commissione che invitava ad accelerare. Oggi abbiamo visto che ci sono stati risultati anche in quell'azione, quindi mi dichiaro soddisfatto. La normativa sul tax ruling, come dicevo prima, permette una retroattività, la codifica, e quindi nell'ambito di questa retroattività faremo tutto il possibile per eventuale recupero che può essere identificabile grazie alla maggiore trasparenza. E poi la vicenda Rai, ossia il canone in bolletta. Oggi non ci sono grossi sviluppi, però hanno chiarito fonti ministeriali che anche se il canone Rai dovesse essere pagato in bolletta elettrica, l'utenza resterà unica e non dovrà quindi essere versata per seconda o terze case, e quindi non ci sarà un ampliamento del raggio dei soggetti interessati, che resteranno esattamente quelli attuali. E poi l'istruttoria è ancora del tutto aperta e non è di semplice applicazione, hanno detto sempre fonti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e Finanze, e stanno incontrando vari soggetti tra cui l'autorità per l'energia. Dal mondo di chi produce energia elettrica, ieri Assoelettrica, oggi l'Enel, arriva comunque arrivano molte così, nemmeno distinguo, scetticismi. Ha detto infatti oggi il presidente dell'Enel, Patrizia Grieco: il canone della RAI pagato attraverso la bolletta elettrica mi sembra difficile da molti punti di vista, è difficile sia tecnicamente sia per i problemi di fatturazione e probabilmente anche dal punto di vista giuridico, non so dire se questi problemi siano risolvibili o meno. Dal canone in bolletta, noi ieri abbiamo fatto notare che oltretutto c'è anche un problema di gettito, perché se lo riduci a 100 euro è molto probabile che il gettito sia più alto e quindi fa incassare di più allo Stato e alla RAI. Allora, se il gettito deve essere invariato a 1.600.000.000 di euro, devi abbassarlo di più, ce l'ha detto lo stesso sottosegretario Zanetti ieri, a 80-85 euro dovresti portarlo. Comunque, dal canone RAI in bolletta andiamo invece all'ANAS su due fronti. Da un lato quello che ha detto il ministro dei trasporti Delrio, dicendo insomma, detto stiamo lavorando per arrivare in tempo per la legge di stabilità, per rendere l'ANAS finanziariamente autonoma attraverso l'imposizione di tariffe che andranno a valere sulle accise del carburante, e questo dovrebbe essere pronto nella legge di stabilità, nella legge finanziaria, e stiamo valutando con Eurostat la possibilità di un'uscita di ANAS dal perimetro della pubblica amministrazione, ha aggiunto Delrio. Di sicuro ANAS avrà autonomia di risorse. Il nuovo meccanismo di finanziamento dell'ANAS permetterà ad ANAS di avere la certezza delle sue risorse e permetterà ad ANAS di avere dei piani quinquennali credibili. Questa è la prima volta che si fa un piano pluriennale che abbiamo fatto insieme ad ANAS e che prevede, come avete visto stamattina, massicci investimenti sulla manutenzione. Queste risorse sono certe nel momento in cui il meccanismo di finanziamento è adeguato, e quindi dobbiamo uscire dalla finanziamento annuale, andare in un finanziamento pluriennale autonomo di ANAS, e questo consentirà a noi di eseguire tutte le opere che abbiamo detto e che secondo me sono necessarie. Sicuramente un chiarimento e anche una maggior linearità nelle fonti di cui ANAS può disporre servono, però il ministro è intervenuto anche sulla vicenda della A18. Che cosa è successo? Che la Sicilia non è più divisa in due, è divisa in tre. In realtà non era neanche divisa in due grazie a quell'intervento del Movimento 5 Stelle siciliano, lo ricorderete, quella strada alternativa. Però qua non è solo l'autostrada Palermo-Catania, è toccato anche all'autostrada Catania-Messina, travolta da una frana. Un costone roccioso si è staccato dalla montagna nei pressi di Taormina, le immagini sono impressionanti. E voglio dire, meno male che non c'è scappato nessun ferito, nessun morto. L'abusivismo edilizio è sotto accusa. C'erano stati venerdì le prime avvisaglie dopo alcune piogge cadute la scorsa settimana, alcuni massi erano caduti. Ieri interrotta fino alle 22, poi riaperta una carreggiata e addirittura i tir sono stati imbarcati su una nave che collega Messina a Catania. No, mi chiedo se in tutto questo abbia ancora un senso ragionare anche come ipotesi di questo ponte sullo stretto di Messina che ciclicamente riappare con tutti i danni che ha già fatto solo l'ipotesi e i costi che ha avuto la progettazione. Lo dico anche perché su questo è intervenuto il ministro Delrio e ha detto: se ci sono responsabilità sicuramente non ce ne sono dell'ANAS né del Ministero. Abbiamo già agito per accertare la responsabilità sul crollo nel viadotto Himera sulla A19, adesso accerteremo responsabilità anche sul crollo della Catania-Messina. La A18 Catania-Messina è gestita, e va detto, dal Consorzio Autostrade Siciliane, che è una società controllata dalla Regione Sicilia. Anche qui non si capisce perché uno deve controllare, vabbè. La frana è tra Letoianni, cioè la frana si registra a Letoianni, quindi tra le uscite di Rocca Lumera e Giardini Naxos. Ha riaperta, dicevo, una delle due carreggiate. Secondo alcune stime, addirittura un quarto delle strade asfaltate dell'isola sarebbe sostanzialmente impraticabile. Ora sentite che cosa è la stima fatta dall'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo, al microfono il nostro Simone Spezia oggi durante Effetto Giorno. Non è una stima fuori dall'ordinario, ci sono varie strade statali, molte strade provinciali in stato di dissesto, degrado, in alcuni casi di impossibile viabilità. Più che assessore alla viabilità mi sembra di essere l'assessore alla staticità. Il problema di viabilità forse non è ancora sentito da tutta la classe dirigente, ma la popolazione lo sente, soprattutto lo sento le categorie produttive, perché dalle strade, soprattutto le strade secondarie, passa il PIL dell'isola. Se questo PIL dell'isola, le merci, non riescono a viaggiare verso le arterie principali e verso l'attraversamento dello stretto, altro imbuto che penalizza la Sicilia, ovviamente il PIL dell'isola decade. Ci vogliono procedure straordinarie e emergenziali. Ci vuole un intervento misto, governo regione, governo Stato, cioè bisogna avere un'unica cabina di regia dove mettere insieme risorse e spenderle con procedure d'urgenza in maniera immediata per gli aspetti prioritari. Poi a poco si riuscirà a tornare all'ordinario. Questa giunta è al governo dal 2012 ormai. Come mai ci si arriva adesso a fare ragionamenti di questo genere? Lo stato di viabilità è degradato progressivamente, sono aspetti anche di manutenzione non fatta negli anni, il definanziamento delle province, abbiamo 14.000 chilometri di strade provinciali, via via nel finanziamento delle province, ora nella loro scomparsa non c'è neanche il soggetto istituzionale che sta dietro alla manutenzione delle strade secondarie. In più le statali versavano già in anni di incuria, faccio il conto che gli investimenti per la manutenzione delle statali nell'isola, che sono 4.000 chilometri, erano 15 milioni l'anno. Oggi il ministro Del Rio ha stanziato solo per la 19 900 milioni. Quanti soldi ci vorrebbero e da chi devono arrivare? Noi abbiamo presentato un progetto dettagliato per il piano per il sud al ministro Del Rio, progetto per tutte le infrastrutture che riguardano la viabilità e i trasporti dell'isola, ammonta a 28 miliardi, di cui 5 miliardi già stanziati. Chiedete al governo 25 miliardi in sostanza, mi faccio... 23, 5 sono già stanziate. Certo, adesso l'investimento pluriennale. Quanto pluriennale, scusa? Ma il fondo FSC è 7 anni. Ho capito pluriennale, però sono 23 miliardi per 7 anni, voglio dire, mi sembra tantissimo comunque, solo per la Sicilia. Però mettiamola in questo modo, visto che è, e lo riconosce l'assessore, un disastro la viabilità ordinaria, cioè l'andare banalmente da Catania a Messina o andare da Catania a Palermo, lo dico ai siciliani, tutte le volte che qualcuno si alzerà per dire dobbiamo spendere 14 miliardi per il ponte, erano 8 sullo stretto, ribellatevi voi in primo luogo, perché sennò sospetto che ci sia qualche interesse. No, lasciate stare il ponte sullo stretto, vogliamo in primo luogo poter andare banalmente in macchina da Catania a Messina o da Catania a Palermo. Traffico e poi la vicenda Volkswagen. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento Focus Economia. Allora, torniamo a parlare dello scandalo Volkswagen. Perché? Perché oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt ha citato una lettera di scuse che l'azienda ha inviato ai parlamentari tedeschi che hanno il loro collegio elettorale dove si trovano le fabbriche della Volkswagen. E in questa lettera di scuse la Volkswagen riconosce che in Europa circolano 8 milioni degli 11 milioni di veicoli incriminati per il taroccamento delle emissioni grazie al software, 8 milioni sono in Europa. La stessa Volkswagen inoltre ha aggiunto quanto noi modestamente avevamo anticipato nelle scorse settimane, cioè che i 6 miliardi e mezzo di euro già accantonati per far fronte a multe, ricorsi e quant'altro non basteranno. Ha detto infatti non saranno sufficienti a coprire tutta la questione. Quindi parliamo di un accantonamento parziale. Volkswagen ha anche aggiunto che effettuerà risparmi massicci per i costi legati allo scandalo delle emissioni, rinunciando a ogni investimento superfluo. L'ha detto Matthias Müller, che è il nuovo capo, di aspettarsi multe significative, e usciremo dallo scandalo solo attraverso un percorso doloroso. Poi il capo del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Bernd Osterloh, ha detto che la buona notizia è che al momento non ci sono ancora conseguenze sui posti di lavoro, anzi c'è la ferma intenzione di fare di tutto per salvaguardare l'occupazione del gruppo Volkswagen. E vorremmo riusciamo a capire che non vi siano anche conseguenze per le nostre imprese fornitrici di prodotti per l'automotive tedesco, di componentistica per il mondo automobilistico tedesco, ripeto appunto, sono tra i 3 e i 4 miliardi all'anno verso la Germania. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica, Roberto Vavassori, buonasera. Buonasera a voi. E dunque, senta, chiaro la difficoltà e l'imbarazzo del mondo, però insomma lei ha sottolineato che c'è un aspetto positivo in questo Dieselgate, però ancora più importante mi sembra la sua analisi sulle intenzioni di acquisto. Prego, Vavassori. Sì, ad oggi non rileviamo infatti significative diminuzioni delle intenzioni di acquisto da parte dei consumatori. Questo è un ottimo segnale, un segnale che si riesce a iniziare a fare chiarezza e distinzione tra un problema enorme successo però su vetture già in circolazione, Euro 5, e invece gli Euro 6 che sono oramai in vendita unicamente dal 1° di settembre come possibile powertrain. Quindi chi oggi compra un'auto la compra sicuramente al di fuori di questo problema. Sì, c'è poi il problema degli 8 milioni di auto in Europa dotate di questo software, 8 milioni su 11. Tra l'altro voi come ANFIA rappresentate, siete l'Associazione Nazionale della Filiera Industria Automobilistica, 230 aziende associate, temete per l'indotto italiano. Noi forniamo 3 miliardi di euro, se non ricordo male, la Germania. Sono 4 miliardi equamente suddivisi tra i vari premium tedeschi, quindi supponiamo, stimiamo che un miliardo, poco più di un miliardo, vada al gruppo Volkswagen. Non riteniamo che ci siano pesanti ripercussioni su questo export, a patto che venga cancellato in fretta questo alone negativo, non tanto e solo sull'azienda interessata, ma anche sul settore, che sembra che sia come dire sotto accusa per chissà quali misfatti. Abbiamo tenuto oggi a precisare che abbiamo ben altri problemi in Italia di inquinamento. Abbiamo ricordato per esempio le decine di migliaia di autobus urbani, più del 52% dei quali in Italia sono Euro 0, 1 e 2. Figuratevi i livelli di inquinamento rispetto allo scandalo Volkswagen, che presunti Euro 5 sono onesti tra virgolette Euro 4. È una truffa illegale, va perseguita a termini di legge senza dubbio, ma non dimentichiamoci i grossi problemi di inquinamento che già potremmo risolvere da subito in Italia. Beh, dico, può fare l'esperimento qualunque ascoltatore, si metta dietro un autobus italiano e senta qual è il tipo di emissioni e di odore che fanno. Non tutti, ci sono città in cui hanno fatto dei grossi lavori, però insomma, andiamo a guardare il parco macchine dei comuni, delle municipalizzate, e poi ne parliamo. Bravissima. Detto questo, non per annacquare, ci mancherebbe, no. La vicenda in cui si è infilata Volkswagen, ma voi temete che si possa estendere anche altri marchi? A oggi non vi è evidenza, e teniamo a dire una cosa molto importante, anche oggi ai senatori l'abbiamo detto molto chiaramente: una cosa è un atto truffaldino illegale, quale quello perpetrato da alcuni dipendenti Volkswagen, ma anche se fossero tanti, sono pronto a scommettere che 591.500 dipendenti su 592.000 sono esclusi da questo problema, anche gli investimenti italiani tra l'altro, e invece riteniamo che le dichiarazioni forti, molto autorevoli, fatte da tutti i principali costruttori che escludono questo problema, cioè di avere creato volutamente una discontinuità tra le prove al banco e le prove su strada, questo ci lasciano tranquilli. Sarebbe veramente folle che un capo azienda di una casa automobilistica dichiarasse il falso in un momento come questo. Sì, anche perché diciamola tutta. Noi sappiamo da sempre che, per esempio, sui consumi non c'è una corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente si realizza. Ma un conto è fare, l'abbiamo detto più volte, il test nelle condizioni migliori possibili al mondo, diciamo irripetibili ma reali, appunto in alta quota, col serbatoio scarico, le gomme piene e tutto un insieme di cose, le gomme gonfie più del normale. Altra cosa è taroccare volutamente le emissioni con un software, nel senso che nel primo caso si porta l'auto a delle condizioni estreme che nessuno di noi raggiungerà mai, però esistono in natura, mettiamola così, nell'altro caso esistono in natura solo in quei casi lì, diciamo, cioè tutte, però sì, vabbè, sì, sì. È come quando leggi di un prodotto ti può aiutare a risparmiare fino al 20% o bravissimo, a fino al 20% in meno di grassi, non si capisce sulla base di cosa, però sono diciamo trucchetti però non illegali, perché questi test poi vengono effettivamente fatti e il risultato è questo. Altra cosa è il software taroccato volutamente. Bravissimo, esatto. Senta, a questo punto però oggi la Volkswagen dice 6 miliardi e mezzo non basteranno, voi temete che l'impatto sia molto più alto? Sarà senza dubbio più alto, ricordiamo comunque che il gruppo, non lo devo dire io, ha una, come dire, ha una cassa attiva per oltre 20 miliardi di euro messa da parte con i propri utili, quindi ritengo che abbia forza finanziaria per resistere a qualunque pressione. Mi faccia passare l'espressione con un riferimento bancario, too big to fail, come si dice di certe banche, certamente un gruppo, e guardando anche l'azionariato, troppo grande perché subisca delle conseguenze, diciamo, esiziali. Sì, sì, si diceva delle banche quando venivano aiutate dallo Stato. Comunque, grazie anche al presidente di Anfia, Roberto Bavassori, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.